Salve da Stefania, dal popolo di Barabba. Il popolo di Barabba. Perché il popolo di Barabba? Perché un popolo, queste sono le mie opinioni, ovviamente, è il popolo che non pensa, è il popolo che va dietro a uno che probabilmente pensa un po' di più, oppure a uno che urla. È il popolo che ha smesso di chiedersi i perché. I perché ce li chiediamo quando siamo bambini, poi chissà per quale strana alchimia quando si cresce non ce li chiediamo più. Ed è questo il male, secondo me, del nostro secolo. Non ci chiediamo mai i perché. In questo fine settimana ho avuto modo di ascoltare una trasmissione ad una radio, perché ho viaggiato questo fine settimana, e parlavano delle auto elettriche. È un'invenzione sicuramente straordinaria, rivoluzionaria, in quanto ci eviterà tutti quei veleni che vengono emessi dalla combustione della benzina e del diesel, quindi per un'aria più pulita. Però ci vogliamo fare una domanda? Dunque, le auto elettriche a che cosa vanno? Ci saranno delle pile, sicuramente, che verranno ricaricate, no? E poi queste pile hanno una durata, credo. E quando queste pile si sono esaurite, dove vanno? Cioè, la mia domanda è, in un parco di auto che si prevede di miliardi di auto nel mondo, ma siamo preparati per smaltire o per contenere poi tutte le pile che verranno gettate perché non più riutilizzabili? Siamo preparati da un punto di vista tecnico-scientifico a far sì che questo non avvenga? Per ora non ho sentito nessuno che ne parla. Si parla di auto elettriche come coloro che salveranno l'umanità dai gas serra, da tutti i veleni che vengono sprigionati nell'atmosfera. Però non si parla di questa cosa. Ecco, siccome so che l'elemento principale di queste pile è il litio, so che sta iniziando una guerra per l'accaparramento di questo materiale, una guerra economica ovviamente, per l'accaparramento di questo materiale, ma lo sappiamo solo da poche fonti e non sappiamo niente invece di come potranno essere riutilizzate, smaltite, insomma che fine faranno le pile che sono altamente tossiche, potrebbero andare ad inquinare le falde acquifere, quindi si potrebbe morire tutti di queste pile. Ecco, mi piacerebbe che qualcuno potesse affrontare questo argomento, perché io la domanda me la pongo e mi piacerebbe anche che se la ponessero altri, in maniera tale che me la pongo io, se lo pone l'altro, se lo pone quell'altro, piano piano probabilmente qualcuno ci darà una risposta. Questo l'ho detto così di getto perché ve l'ho detto, questo fine settimana ho sentito parlare di auto elettriche che ci salvano dai veleni e quindi mi piaceva condividere con voi questa cosa. Però l'argomento del quale volevo parlare oggi è l'argomento umanitario in Africa. Ultimamente ho avuto una grossa polemica con l'UNICEF. Io ho scritto all'UNICEF perché l'UNICEF ultimamente sta facendo una campagna pubblicitaria, uno spot pubblicitario, sul lascito ereditario. Io invito tutti a guardare questa con un occhio critico, insomma, guardare un attimino anche i contenuti e l'aspetto educativo di questa campagna pubblicitaria, di questo spot, che io non lo trovo bello, lo trovo brutto nei confronti di chi ha bisogno. Ecco, non tanto di chi riceve lo spot e di chi riceve il messaggio, quanto delle persone che invece ne dovrebbero trarre i benefici. Quindi ho espresso questo mio parere ad una mail all'UNICEF citando appunto questo spot che è brutto e lo ritengo uno spot di plagio, anche se tutti gli spot pubblicitari ovviamente rientrano in questa categoria, altrimenti non sarebbero spot pubblicitari. E tutti noi poi siamo plagiati più o meno o da quello o da quell'altro, da quell'altra pubblicità, messaggio pubblicitario. Poi c'è chi lo guarda con occhio critico, c'è chi invece pende dalle labbra dello spot, e questo insomma aspetta a ciascuno di noi prendere quello che di buono o di cattivo c'è in questo. Dunque, ho scritto questa mail dicendo appunto che era secondo me plagio. Ho scritto anche che usare bambini, come strumentalizzarli per fare una cosa del genere, facendo vedere poi i bambini felici con le fotografie del morto in mano a questi bambini che baciano queste fotografie pieni di riconoscenza nei confronti di chi ha lasciato la sua eredità a loro. E poi ho detto anche che in un libro di Eugenio Melandri, per chi non conosce Eugenio Melandri, è un sociologo ed è uno che è stato in Africa, esattamente nella Repubblica Democratica del Congo, nel 2006, quando nella Repubblica Democratica del Congo iniziava le elezioni, l'alba della democrazia, che le persone andavano a votare per un futuro migliore, che poi insomma abbiamo visto che non è stato per niente così. Il Congo ha continuato ad essere il Congo dittatoriale che è sempre stato. Eugenio Melandri nel suo libro, a pagina 48, dice appunto che le grandi organizzazioni non governative, tra cui anche l'UNICEF, i funzionari vengono pagati, in questo caso i funzionari di Goma, Goma è una località del Congo, vengono pagati anche $12,000 al mese. Ora io non voglio polemizzare su queste cose perché sappiamo bene che i funzionari devono essere pagati e vengono pagati, non era nemmeno tanto questo insomma l'argomento che io volevo focalizzare e puntualizzare con voi. Mi si risponde che allora dice tutte le pubblicità sono plagio, in effetti io avevo appunto asserito che tutte le pubblicità, soprattutto quelle dove vengono usati i bambini, e ultimamente i bambini vengono usati dappertutto, non capisco dov'è il garante di questo, e poi mi dicano che loro hanno chiesto il consenso ai genitori per far apparire questi bambini nel loro spot. Allora io mi chiedo, sorrido sommessamente e sorrido anche con un po' di tanta amarezza, perché io conosco il Congo, ci sono stata, conosco qual è la situazione. Che cosa significa chiedere l'autorizzazione ai genitori? Ma quei genitori avrebbero firmato qualsiasi cosa a un bianco che gli va a portare cibo. Quindi, per favore, non offendete l'intelligenza di chi vede quella pubblicità. Per favore, vi chiedo solo questo. Sempre per rimanere in tema dell'Africa, che viene chiamata il granaio del mondo, viene chiamato la salvezza, la nostra salvezza alimentare per quanto riguarda il nostro futuro, perché l'Africa è grande, perché l'Africa, i cinesi stanno comprando, ormai lo sappiamo, no? Stanno comprando appezzamenti di terreno enormi perché loro vogliono crescere in popolazione, però non hanno le risorse per poter produrre i prodotti per tutta quella popolazione, quindi in previsione di questa crescita loro comprano questi terreni e ci pianteranno appunto grano, riso, ci faranno la loro scorta alimentare in cambio di pochi dollari. Quindi la popolazione africana continuerà ad essere povera, sfruttata, e soprattutto continuerà ad essere inconsapevole del futuro che gli aspetta, perché a loro non glielo dice nessuno che il loro territorio è un territorio ricco e che loro potrebbero vivere nella loro terra con dignità e decoro, senza l'aiuto degli altri. Non glielo dice nessuno, vengono mantenuti nella loro miseria, nella loro povertà e soprattutto nella loro ignoranza. Questo secondo me non è più tollerabile, anche da parte delle associazioni che si occupano di cooperazione internazionale. Sarebbe importante invece di portare aiuti, che loro non hanno bisogno dei nostri aiuti materiali, non hanno bisogno dei nostri vestiti, dei nostri quaderni, dei nostri lapis, non hanno bisogno di queste piccolezze, loro hanno bisogno di scuola, di istruzione. Solamente attraverso l'istruzione questo popolo si può rialzare, perché è un grande popolo, il popolo africano. Veniamo tutti da lì, quindi perché non avere attenzione su questo? Istruzione, cerchiamo di dargli, di aiutarli, anzi, nell'istruzione non hanno bisogno di altro, perché poi saranno loro stessi a fare del loro popolo un popolo libero e un popolo dignitoso. Grazie.